essere buona, dai. Però il segnale è sicuramente basso basso. Ma che chiamo il segnale di 7, modulo H8, radio tutto 5? No, no, la radio già lo so che è buona questa, eh. È buona, buona, buona. Però la potenza è bassa. Potrei metterle quelle, c'è un linearetto piccolino da una cinquantina di watt, ma non è giugano ad attaccarla, va. Capito? Perché stavo disturbando il mio televisore alla rete Rai, non ho capito perché, c'è l'antenna umida, qualcosa è successo, devo salire a controllare. E se sollevo potenza disturbo, siccome mia moglie sta guardando al primo, capito? No, allora, no, anche io a volte, ma non è che disturbi tu, a volte è il tempo, sento magari che si fa disturbare, perché anche a me, non so, guarda, sulla 27 no, non disturbo mai, in qualsiasi tipo di frequenza, mentre sulla PMR, lì, come le PG, queste cose, lì, l'altra sera facevo un euro sul televisore, poi ho abbassato la potenza, ho abbassato e non facevo niente. E ieri ho riagganciato al massimo e non gli ha fatto di nuovo niente. Ma è vero che sono le giornate? Sicuramente. No, io da nessun'altra parte, solo a Rai 1, però se sto usando la radio grande, capito? Col baracchino no, evidentemente è proprio questione di potenza, ma sono questi televisori di ultima generazione, poi io ho tutto l'impianto, video registratore, vale bene poco roba attaccare ai suoi televisori, ma va bene. Sì, come me, dai. C'è un casino di cose che io ho attaccato a quel televisore. Ciò, addirittura c'ho anche un piccolo gioco. E vabbè, ma niente di particolare. E comunque, va benissimo. No, io ho cominciato l'ho acceso adesso, questo qua, ed è ancora freddo. Non so come sta andando, però spero che quanto si rimetterà in linea. Stavo rispondendo a Massimiliano che voleva sapere se domani mattina ci prendevamo il caffè. Va bene. No, ma no, non lo so, a volte lo fa, a volte non lo fa, anche a me, non capisco il perché. Evidentemente è proprio questione di umidità, qualcosa, non lo so. Sì, può essere anche, può essere. No, diciamo che la 27, ripeto, non me l'ha mai fatta, in qualsiasi tipo di frequenza, in qualsiasi tipo di potenza che gli ho ritrovato all'interno, non me l'ha mai fatta. E sono l'X200 che mi fa quel lavoro lì, a volte sì, a volte no. No, io in V e non niente, ma neanche in HF con potenze anche elevate, solo il 27 me lo fa. A volte, ti ripeto, è la mia televisione, però è non a quella degli altri, è la mia. Non riesce a comprendere Pagosa, invece si usa così, adesso sto usando un DAC con l'MB più 5 e ho 4 watt, 5 watt e non sta disturbando. Se è comodo al 440 o al 430, allora disturbo il mio televisore, capito? E allora vabbè, usiamo questo piccolino. Vediamo se c'è Massimiliano che stava uscendo. Massimiliano, ci sei? Non lo sento, ma è dove stavo uscendo? Neanche io lo sento. Evidente che ancora non è in macchina. No, non è in macchina, era a casa che si stava preparando, evidentemente si preparando. Vabbè. Va bene che va bene, fra. Questa è una signora radio, c'è una bella ricezione, poi gli avevo abbinato questo MB più 5 che mi aveva dato Gigi Vulcano, ce l'ho a metà, Mikey Gain a manetta, e già funziona bene. C'ha pochi watt perché le valvole sono esaurite, se no deve dare 15 watt e questo. Ma le valvole sono mezzo esaurite, quindi me ne date 5 e a 5 watt lo tratto. Ma non è, possono sempre cambiare, tra. Vabbè, costeranno un po', però se ne cose da bere, va. Non ti faccio mandare la foto di Lutac. Uni due a caffè, uno niente all'altro. Faccio mano usci, ho una ragione, è grandissimo questo baracchino. Capito? No, non sono valvole facili da trovare, fra. È proprio quella dei VAT, capito? Perché è trasensorizzato, però c'è lo stadio finale a valvole. E quindi devo mettermi alla caccia se la trovo. Perché l'ho lasciata molto ferma, però è in ottimo stato. Funzionante al 100%, manca solo un po' di potenza e basta, va. Sì. No, ma come mai io, anche se arrivi in soprasso, diciamo, per confrontare i fatti che c'hai, la radio è buonissima, è molto molto molto buona. Sì, quello del V5 esce bene, veramente esce. Lì non hai mai, non viene detto un MX60 per vedere se va, oppure un altro tipo di microfono. No, fra, c'è la MB più 5, perché questo c'ha il connettore tipo Galaxy, capito? Quindi con questo microfono uso due o tre radio. Ma perché non la conosci questa radio? L'hai mai vista? Sì. Non me la ricordo, Galaxy, come è fatto. No, Galaxy che l'abbia visto, però non mi ricordo. È stato peggio. Ho visto quella ultima che mi hai mandato, però non ho capito bene che tipo di radio è, perché è noiosa, non si legge niente. E quella, vabbè, quella base della ICOM, l'ultima che è uscita. Ma ti romando, Lucky, ma esiste. È un barragione, ma è bellissimo come baracchino, eh. È grandissimo, enorme, è il più grande baracchino, penso, al mondo, non ce ne sono baracchini così grandi. È bello compatto, poi, vedo. C'ha gli strumenti, se ne vedi, guarda, ti ingrandisci, sembrano rose, metri il vatti, metri di tutto, va. Ah sì, l'avevo già visto questo, sì, non me lo ricordavo, sì, l'avevo già visto. Cazzo c'ha, e c'è bene invece, c'è quattro smitter c'ha, questi quattro smitter cosa... Uno è sinistra, gli altri... Allora, fra la sinistra e la sinistra c'è il rosmetro wattimetro. Poi subito dopo c'è il... cioè quello, il primo a sinistra è il rosmetro. Secondo è il wattimetro con la tensione anche delle valvole, dell'anodica delle valvole, della tensione. Il terzo strumento, sempre da sinistra verso destra, il modulometro. E l'ultimo è lo smitter. Guarda quanto è grande lo smitter. Sì. Plastica. Bello. C'è tutto quanto in plastica. Tutto lì... I quattro strumenti. È bello, come solo che modello vecchio, però c'è bene anche, che attorno al 300 è micidiale. No, c'è bene. Se gli aumento la potenza, lo porto a 50 watt, sino a fotti di rugato, c'è una bella modulazione. Bella corposa, no, va bene come baracchino, fra. Guarda che ti ho rimandato quell'altra, ingrandisci, si dovrebbe leggere la scritta, si dovrebbe leggere. No, niente qua, niente, non si legge niente. Niente. È il 910H comunque quello lì, è. 910H, vai a vedertelo e te lo vedi dal vivo. IC 910H. Icon? Sì, dell'Icon. Ok, dai, un altro momento, adesso... Sì, ma infatti con calma te lo guardi, poi scrivitelo. No, bella radio. Io c'ho anche gli altri due, mi te l'ho detto, come quelli che c'ha Vannino, sempre base della ICOM, capito? Però sono analogici, mi piaceva quella, ma la sono presa quest'anno, anche se non la uso, però ce l'ho, mi piaceva. Va bene, vediamo se qualcuno vuole entrare sul canale 10, c'è qualcuno? Marco, ballate in camera, nel basso. Io ho un problema qua, sono occupato, non ti mettere questi problemi. Sì, va bene, io, come ti ho detto, infatti avevo detto, avevo chiesto di prendere quella roba là, ma non la prendo più, non mi interessa più. Adesso, quindi di una partita non mi interessa, visto la situazione. Che cosa te ne fai, fra? Sono grandi K2, capito? Non hai capito, ce ne stanno prendendo tutto, oramai. Oramai ce ne stanno prendendo tutto. Fa cosa la buia? Fa cosa? A tenirli illudati di radio, capito? Assegnano le frequenze, fanno tutto quello che vuole fare il ministero e poi non va mai nessuno, nessun lucro, manco noi ne siamo occupati. Ah, che si rimangiano, si impicchiano, non mi interessa. Io te l'ho detto, fino a quando c'è gente, posso fare due chiacchiere anche qua in 27, va bene, se no fra. Rimane tutto il lato, non mi interessa più nulla, guarda, manco pensando ci sto. Infatti, proprio ieri mi stavo pensando, avevo tutto il piacere in mano, perché hai detto viaggio, ah no, viaggio, dice, non viaggio qua che mi riprendo, ma il bagaglio, poi hai giocato, beh, adesso siamo mio figlio, e come il corso della forza della PayPal c'era lui, no? Io volevo. Siamo mio figlio, ho detto, mi carico la PayPal e l'ho preso. E poi oggi quando non avete detto no, io manco barricato. No, almeno io se l'altra mattina stavo chiacchierando, capito? Poi mi è arrivata quella documentazione su WhatsApp e te l'ho girata. Perché io sinceramente non sapevo niente. Non mi occupo di queste cose, capito? Da tanto tempo. Invece dal 2015 che avevano già cambiato. E vabbè, pazienza, c'è Bilellucci. Io ti ripeto, non ero al corrente. Mi hanno informato, io ti ho informato, tutto lì. E vabbè, no, fra. Lascia perdere, lascia. Meglio nulla, mi baracchino, due giaccioli, e boh, e via, torretto e noia, come ti dici a Califano. E quello che è vero, però, come io con una persona parlavo in un'altra frequenza, parlavo sulla 466055, parlavo sempre lì. Non ti ha mai detto niente nessuno? Mai che mi ha detto mai cosa? Ci ha detto mai niente nessuno, no? Ci te l'ho detto, io non sapevo niente. Ah, gli puoi continuare, fra. Penso di sì, ti ho detto, leggiti bene qualcosa che ti ho mandato, perché magari giralo a quella persona lì e glielo fai leggere, magari ne comprende di più. Non lo so, io non ci ho capito un accidente, ho visto solo band plan, e quindi mi sono accorto che praticamente sono state delle modifiche addirittura più di quello che c'era prima, più di quello che c'era prima, a quanto si legge lì. E vabbè, ci si indegnano, ci si indegnano, si ribongono e andranno all'armadio, ma tanto altro non può ne va. Sì, quello sì. Vabbè dai, no, io stavo leggendo, però ho visto solo cose delle frequenze, poi il resto non ci ho capito un capo, lo stesso, non ci ho capito. E ho guardato un paio di cose, però noi vado tutto già sai i corsi. E a quanto pare loro arrivano fino a 446, poi basta, non possono andare oltre. Sì, ma infatti il limite è quello lì, sì, ma già c'era un limite, sino a 4,40 ora è portato a 4,46. Poi sono scesi molto più giù, prima era 4,30, adesso era 4,10, è stata espansa parecchio. E vabbè, e anche altre bande HF avevano espanse, 40 lo stesso, portati sino a 7,200. E vabbè dai, si arrangiano, poi si me ne affutta mai, sta giusto quando non vuoi più nessuno, vuol dire, io vado a Filippo, lo sto addestrando a parlare, se riesci a farmi da Grugani, giocare vinto me, a Baida, tante più che gioco io, se riesci a farmi da Grugani, mi posso solo impiccare. Vai a prendere la patente anche a lui. E allora, dove rompermi le balle? No. Carità, adesso le tendi è, quindi adesso ha mangiato, è sdraiato lì sotto la televisione, il suo lettino, fra poco con ragione, se tendete, alle siete vinti in entrambi, come te lenghi i membri, che va a portarlo. Ne manca la parola a quel cane, poverino. Vabbè. Allora, questo non ha problemi. Magna, drommi, e ci ne ha tutti. Ehi, io lo vedo. Ehi, ragazzi, mi fa. Va bene, ragazzi, ma più non mai più. Hai capito, no? No. No, no, non c'è niente. Tutto finito. Grazie per questo. Tutto molto, tutto molto. Tutto morto, tutto morto. Boh. Io mi, quando sono qua a casa, la metto, di solito sto sempre in 40, ascoltare, che è quella più trafficata, soprattutto di mattina, metto lì, Miglio Giornale, Bogalegia, Cotlemi, poi mi stufo, quindi mangiamo, mi tescio. Io di solito sto scendo a mezzogiorno, mezzogiorno e mezza, e rientro all'una e quarto, l'una e venti, tanto ne mangiamo sempre l'una e mezza, capito? Giusto così. Vado a prendere un aperitivo con gli amici e poi me ne torno a casa. Queste sono le mie uscite, fra. Lo sabato, la domenica, prima ero Travaglieni ed ero sempre Travaglieni. Ma non sono Travaglieni mio, sono più a casa di prima. Non stiamo andando da nessuna parte, c'è mia figlia incazzata nera. Incazzata nera. Perché a Natale eravamo fuori, è stata male mia moglie, siamo dovuti rientrare. E quindi niente, si è fatto anche il Capodanno. Capodanno non siamo andati da nessuna parte. Dovevamo andare a Gerone da mia figlia, non siamo andati. Ah, guarda, l'Epifania, dove è MC? Non ho voglia, non ho voglia, vabbè, siamo a casa. Faremo due a Befana, io ero Befano, andavamo a Tessi. Ehi, vabbè, quello che succede con quello, non è che... Io lo stesso, vabbè, io stavo lavorando, non è che ho sorteggiato mica tanto... Stavo per i 24, sono stato con mia moglie qua perché... sono arrivato 10:30, tra una cosa e l'altra, fatti giù su tutti, si è passato di Londra e non è la cosa di andare da nessuna parte. Quindi capodanno, c'è l'ultima volta dell'anno, ce l'abbiamo fatta con amici, ce l'abbiamo fatta per gli amici e via. Però per resto, guarda, come festeggiare, so. No, vediamo un altro anno, dai, un altro anno può essere molto meglio. Speriamo di andare in pensione tutto quest'anno, perché il 20 di questo mese ci potrebbe dare una risposta lunga, a quanto mi ha detto lui, e vediamo un po' come va a finire. E poi a che cappello vediamo, a costo della stanzata. E cosa va lassù, sopra, non ce n'è problema. Tanto male, a volte ti chiamo e tu sei al lavoro, sei smontante, quindi stai riposando, poi vieni a mezzodì in Chivi e lontano. Però quando vai in pensione tu già ci vediamo più spesso, non ti preoccupare. Io sono sceso anche da poco a Sos, sono andato a trovare lì all'impianto i colleghi. Infatti c'era un po' di roba che hanno brindato il 31. Pure ai sfumanti, avevo un panettone, sono rimasto lì un'oretta e poi me ne sono andato lì agli uffici di sosta del depuratore. Giusto per uscire, mi fra, giusto per uscire, perché ti ripeto, non sto andando da nessuna parte. No, mia moglie ha preso quel virus maledetto, ma lacrimata, ma che è fatto? Natale se l'ha fatto a letto. 24, vabbè, siamo andati fuori il 22, 23, 24, 25 praticamente eravamo a casa. Perché stava talmente male che siamo dovuti rientrare. E da lì si era portata fino allo 31, fino allo 31, ma stavo leggendo nel giornale stamattina, mi pare c'è nel giornale di oggi, 1800 pazienti al pronto soccorso con questo virus, di cui 400 ricoverati, addirittura, proprio persone anziane e persone grandi. I giovani l'hanno superata la bella media, ma... Dice che ha fatto strage il virus influenzale e poi mia moglie era a capogiro, non si reggeva dritta, capogiro, nausea, vomiti non ne aveva, ma capogiro e nausea una cosa allucinante, cioè non riusciva a stare in piedi, era sempre coricata, sempre coricata. Capo, sì, mi ha parlato anche del televisore, mi ha parlato perché la telegiornale di questo virus che c'era in giro, però diciamo che prendeva più la gente grande che quei giovani, prendeva, diciamo, le persone di una certa età, ed era peggio. purtroppo quello che avevo fatto, purtroppo è un video su cui c'è la regia, però non mi arrivi con tutti, con tutta la gente che arriva e non mi arrivi, guarda, a me è una cosa che sono cose che ogni anno si sentono, cose che non avevamo mai qua in Sardegna, specialmente e vanno arrivando di tutti i manesi, virus, coronavirus, no? Sì, ma come quest'anno dice che non c'è stata mai una cosa così, capito? Non c'è stata mai una cosa così, proprio, ma crepata proprio, mia moglie non... Infatti dice, ormai siamo qua, rimaniamo qua, portami via. Siamo dovuti rientrare. E praticamente ho perso prenotazione, ci ho perso tutto, però se stava male perché dovevamo rimanere fino al 31, invece siamo entrati proprio il giorno di Natale, perché non si poteva stare, non... E passa cucata, giusto, ti andiamo a casa, ti stai a casa cucata, cosa ci faccio qua? E quindi siamo rientrati. E vabbè, pazienza. Va bene. No, poi te l'ho detto, il 31 eravamo a casa. Dovevamo andare al Cenone, però già si sentiva un po' meglio, ma c'è una cosa, io non ci vado a mangiare porcherie a sentirmi di nuovo male, e quindi siamo rimasti a casa, mia figlia è entrata alle 8 al lavoro, il 31 ed è rientrata l'1 mattina praticamente, alle 6, hanno finito, figura di era al lavoro, e vabbè. E noi niente, e noi siamo andati a televisione, ho bevuto un goccettino di spumantino a mezzanotte, una fetta di patatone, a lunedì ero io a cucare. Hai fatto due per me, no? Ehi, vabbè, dai, a parte tutto, purtroppo quando c'è qualcosa che non va è così. È fatto bene a rientrare a casa, secondo me, perché è meglio che tu non sia stato a casa che duri e senza non si fare male. Meglio a casa sua, perché si muove meglio. No, no, ma poi stava male davvero. Era stato pure io, abbiamo chiamato due volte la Guardia Medica, le hanno fatto una puntura, cioè non reagiva, proprio un cadavere, bianca, detto io, e lo teniamo a casa prima che non andiamo più la notte. Siamo rientrati e basta, infatti anche mia figlia, ma papà andiamo perché non si può stare fuori così con mamma in queste condizioni. Siamo rientrati fra, vabbè, pazienza, è andata così, avevamo fatto un bel programma per quest'anno, invece è andata male, pazienza, sarà per il prossimo anno, ora, dove ti dico, sarà per il prossimo anno, sì, allora quattro, quello prima, anche prima, mi sono curicato, c'era un po' di festa qua nel condominio, giù nel piazzale, stavano sparando, facendo salire questi tipo fuochi d'artificio, già sono sceso un po' giù a fumare una sigaretta, a fare gli auguri un po' a questi amici del condomino, voi mi siete giocato, forse non era neanche l'una e 10, mi sono bucato e mi sono dato un mandato che era in zinco d'ora, perché tutte le mattine frate non c'è Cristo, anche stamattina alle 5:15, 5:20 io apro gli occhi e non c'è Cristo più di dormire, sono già da ottobre a casa, ancora non mi sono abituato fra, non mi sono abituato, non ho venuto da fa, ma sono convinto che se mi piglio un sonnifero, alla fine l'effetto dello sonnifero è brucio Mattesi. Non lo fare, meglio svegliarsi presto, lascia perdere, non prendere sonniferi, quelli rovinano tutto, è meglio svegliarsi presto, almeno sai, sai meglio, guarda, e se poi sono due mesi, tu vai alla passeggiata, forse è meglio ancora, la vita ti va più avanti. Stamattina ti sto dicendo, avessi aperto gli occhi, forse anche prima. Ah, io mi dicevo che era ancora buccia, ho detto, vabbè, sono rimasto un altro po' a letto. Alle 7, bravo, 7 e un quarto mi lascio mattare. Ci ho fatto la barba, la doccia. All'otto ti sono uscito, pronto, piazza le scene, infatti mi ha visto la barba, non c'è la cieca, ho a letto. Ho fatto, no, qua, no, non ce la faceva stare, io fammi un bel caffè. Ci fatto colazione, un caffè, tutto, la barba, l'ho mangiato, ho portato le paste qua a casa. Sono rimasto sino alle 9 qualche cosa, poi ho sistemato il cane, ha giubilato la macchina e me sono sceso a Porto Torres, una passeggiata tutta la litoranea, mi gioco prima a Barai, mi ho fumato un'altra sigaretta, e ho fatto due foto al mare, ma c'era questa, la gente, ma guarda, bellissimo, bellissimo veramente, una bellissima giornata stamattina. E poi dicevo che è stato d'ora al 131, piano piano, sono entrato a Predanieda, ho fatto tutto il giro, a mezzodì e un quarto torno a casa. Infatti mi ha detto, qua sì, aiuto, ti avete in piedi, la vai per terra. Vabbè, ciao, mi seguo, sono tornato all'una e mezza. Sono andato lì al coso, prima per il tipo che ho chiamato un collega, ho detto, vieni che sono qua al bar lì di Nuove Sole. Sono andato, due chiacchiere, un aperitivo, ma ci ho mandato un'altra gente e mi sono venuto da casa. Finita la giornata. C'è ancora i genitori giù? Ma c'è a Porto Torres, mio fratello, mia sorella, sì, mio fratello e mia sorella sono a Porto Torres, due, e due sono abitano ad Alghero. Ma i genitori non ce li hai più? Babbo, manco conosciutolo io, babbo è morto, è che ho cominciato a 16 anni a travagliare, babbo è morto, io ci avevo 3 mesi, ero l'ultimo, non l'ho manco conosciuto io a babbo, mamma già c'è ancora, sì, mamma c'ha 80, 85, mi pare, 84 anni, no, 84 ne ha, già c'è ancora. Molto giovane, è molto, molto giovane allora. E vabbè, c'è sempre un genitore, cioè, per un altro qua, non è nulla. Almeno la mamma c'è. Sì, già c'è. E anche, dai, un po' acciaccata, c'ha il suo baccolino, già cammina, un po', però è abbastanza... Voglia che funziona, un gore sano, l'importante è quello. Però per il resto non è che si muove molto, non è che si muove molto, c'è accompagnamento perché non riesce più a camminare, capite? Non riesce più a camminare, poco cammina, dai. Sì, tutto qua. E niente, è nulla. Ogni tanto già scendo, stamattina avevo voglia di andare. Manco vera, era ad Alghero da mia sorella, era ad Alghero da mia sorella, sono scesi e anzi veramente l'ha accompagnata mio fratello, dovrebbe rientrare domani, cos'è, domenica, te rientrerà sicuramente lunedì. No, devo dire, nel senso che almeno c'hai qualcosa per un appoggio per andare, perché c'è sempre un genitore lì, c'è sempre buono. E niente, però io, ecco, anche se è fratello, è sempre bello andare a trovare il fratello e la sorella, è sempre bellissimo, che a me piace fare, andare a trovare. E niente, ma quanti non va a entrare nessuno, molto mai. Massimiliano, adesso in Girella. Sì, Massimiliano, stavo uscendo, stavo andando a fare delle commissioni e poi tornava. Niente, e mi stasera avrà una partita, avrà Juventus. Mi ho guardato un po' di sport. Ho guardato il Napoli, stasera c'è il Cagliari, ci guardiamo Cagliari Juventus. Ho guardato un po' di sport, ma me lo metto, drumente, lo divano. Lo divano è peggio di vento per me, non riesco a stare. Come mi siedo lì che mi appena appena, mi caramaieccio, addio. Infatti manco una giuvita un pezzo, mi sono uscitato e finito di battiti, ha detto, beh, lascia che ha vinto al manco. È lontano dal divano, quello lì è peggio di un giuvito. Questi commenti da pizza, mamma mia, io dopo cena mi siedo lì, mi addormento, addormento, mi gammaieggio una mezz'oretta, poi apro gli occhi, capito? E come stanno parlando? Dormi tu, dormi. Non vedo mai, ti ho detto una cosa, però no, magari non vedo la fine, capito, fra? Proprio a chi mi viene in via la sonnolenza. E anche quando rientravo al lavoro, magari arrivavo a casa alle 2:15, pranzavo, poi mi sdraiavo un attimo al divano, mi ci davo alle 5, No, vera, nuda va. Certo. Ma sai che ogni tanto c'è mancamenti di modulazione? Mancamenti proprio di modulazione? Fratta radio, invece, è già troppo se scendi, forse non schiaccio bene il microfono. Comunque, ovviamente ogni tanto c'è mancamenti, manca la modulazione completamente, però si ripiglia subito. Allora devo essere un microfono che non lo schiaccio bene, inizio a vedere mettendo il lock, ecco qua, così c'è il lock, già sta uscendo, sì? Sì, sta uscendo, adesso mi ascolto benissimo, però mi occupato, non so, parli continuamente, ogni tanto ti dà dei mancamenti, magari dipende come è calda, capisci? Ti sei arrisata, hai Luca? Ti sei arrisata? Che sei curioso che... Che ti ha arrisata, pare? Fatti un bambino, pare? Sì, vabbè. Ma invece ci sono gli altri, quindi senti. Vabbè, adesso non funziona. Sono gli altri, dall'altra parte. E il PMS? No, sì, sei due. Sì, nel ponte. Ehi, ce l'ho acceso anch'io, ma no. Stende nulla, forse non so fa vedendo, va. Io ce li ho un po' tutti accese le radio, però. A volte si intende, a volte non si intende. Magari c'è un'antenna buca la radio che ha già atteso. Riesci a vedere. Capo. No, non stanno parlando adesso. Qua c'era un. Sì, vabbè, ogni tanto fanno due chiacchiere, ma manco si intende qualche cosa. Vabbè. Cioè, premi, fra 5 minuti, poi vado a portare il cane. E uscire da voi, ceniamo, tanto mi esco, 8:20, 8:25, esco a portare il cane, a voi rientro, sono già più di lutto, mangio, televisione, finitami, era per fare una ciuccia. Era per fare una ciuccia nel vuoto, era una multimedia, capo, però sulla 30 dovrebbe andare bene, dai, 81 dovrebbe andare bene. Che lì non dovrebbero toccarlo. A quanto c'è scritto in quel foglio, in quella documentazione, dovrebbe essere finale sino a lì. Fino a lì, quindi se tu sei a 3 non dovrebbe succedere niente. E bisogna che si informino bene, io ti ripeto, non lo so. Non faccio compreso nulla. Se c'è qualche intermedia lì in mezzo, io mi tengo in mezzo. Adesso non ne ho voglia di stare, anche perché nel telefonino, capito? Se avessi avuto la carta stampata me l'avrei detto bene, segnato tutto, ma col telefonino me l'avrei detto a me, un'occhiata tra la gente. Però se c'è qualcosa in mezzo, io mi tengo in mezzo, non me ne affotti nulla, me ne porto un'altra e mi rimango in chiavi. E infatti, basta chiedere con la persona di avere la situazione com'è, e spiegarglielo, vedere com'è, e poi si va in confronto alla situazione e si agisce. Sì, infatti adesso la documentazione, che ho girato io, basta leggerla bene, vedere un po' se qualcuno ci capisce qualcosa, mi fa sapere, o ci fa sapere, fa vedere anche magari a Coso, già lo sai, non lì a Sos. La fai vedere a lui, magari se comprende anche cosa, manda via, manda un messaggio, deciframi chi sa cosa. Cosa vuol dire, dove possiamo stare e non stare. Perché io sinceramente non ci ho capito niente. Aggiungi, giuro, dice che è fitto, però. Non ho detto. risultati ottimali, dai. Non ci può cagare, ci ha fatto le pescherie, però sembra una cosa abbastanza importante. Vabbè, meglio così per loro. Noi vuol dire, fa vedere pure i cani. Oh, prego un attimo, Claudio. Dimmi, Robert. Guarda che stai uscendo male tu. Che sto uscendo male? E come sto uscendo? Non so cosa stai uscendo, prima di tutto il segnale è molto basso e stai uscendo a colpi di radio. A colpi di radio? E sto usando il DAC con le MB più 5, sono 3 watt. No, ma male c'è le batterie, perché la voce sembra che stai strappando, fa ta-ta-ta e si interrompe a momenti. Vuol dire che sto parlando troppo forte, capito? Bisogna parlare un po' più piano, perché la modulazione già sta uscendo. Vedo il modulometro che sta lampeggiando, vuol dire che già sta uscendo. Magari stavo parlando troppo forte. Ah, uscire già sta uscendo anche forte, però stai strappando, nel senso stai andando troppo forte probabilmente. Il coso microfonico è troppo alto, il livello microfonico. Ah, il livello microfonico è troppo alto. Allora abbassiamo leggermente, forse era troppo alto, lo metto così, meglio va. Allora fai un passaggio più lungo. Guarda a vedere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lo metto così. Ma quanto era? Forse era troppo alto, adesso ce l'ho a 3, prima era 6, va bene così. Sì, adesso non sta più strappando. Comunque buonasera, non ho sentito chi è l'altro, avanti. Ehi capo, buonasera Roberto, ben ascoltato, dai, saluto. Franco da ciò. Sì, ciao Franco, ben sentito anche te. C'è qualche donato oppure? No, negativo, sono solo io. Ma ecco qua, stai uscendo col DAC. Sì, sto andando col DAC e l'MB più 5 da tavolo. Infatti sono circa 4, 5, una cosa del genere. Forse era troppo alto, sì, era troppo alto il microfono. Lo abbasso ancora, adesso l'ho messo a 2, va bene così? Sì, va meglio, scusate un attimino il telefono, proseguito un attimo. Eia, riprende fra, meglio andare così. Diciamo un po' più basso, più accolto, però va bene lo stesso, come radio va bene lo stesso. Vabbè, forse era troppo alta, perché con Roberto siamo molto vicini e quindi andava a trappare, perché spinge un bel radio questa, spinge parecchio con questo tipo di microfono, capito? Capo, infatti poco fa te l'ho detto che avevo i problemi del radio, a volte usciva, a volte mancava. Sicuramente era troppo alta, quindi andava a mangiarsi la modulazione, perché io qua vedo che il modulometro sta segnando, capito? Il modulometro già sta segnando. Poi andava a mangiarsi la modulazione perché era troppo alta. È probabile, sì. Ma vabbè, che proviamo a fare. È importante. Va bene. Probabilmente era quello lì. Sì, era quello lì, Va bene, fra, io inizio a prepararmi, dai. Se mi rientra Roberto, ti lascio con Roberto, poi già riprendo dopo. Ok. L'altro Bonti è entrato in funzione. Solo chi ci intende tutta la vita. Tu, non si intende un cane. Mi preparo, fra, già riprendo subito, ok? Ehi, va bene, intanto io vai, sono giù un attimino che mi prendo la cosa bene, perché meglio usare. Di sicuro non sarà roba bianca, sarà roba rossa. Ciao. Io non sono amante del bianco, a me piace il vino rosso buono, dai. Ciao fra, ci aggiorniamo dopo, che mi preparo, qui ci vado a portare il cane. Ehi, va bene. C'è qualcuno con la 10? Vabbè, io sto andando a portare il cane e Franco ci arriva subito, ok? Va bene, dai, semmai se è acceso poi vediamo, ciao. Ciao, Robè. Oia, e cosa ti fa male? Poi sono tornati adesso da mia zia. Abbiamo mangiato lì, abbiamo giocato a giochi di società, una volta ho vinto io, una volta ho vinto mia zia, ma poi mi ha regalato i 5 rovinti. È divertente, ci vuole un po' di impegno però. Io sono a Bigi. Quello bella giornata oggi, guarda, una giornata stupenda, il cielo terso, il sole, non c'era freddo. Veramente, guarda, se domani è così bella ce ne andiamo a pigliarci gelato a Platamona e a fare un giro. Io sono a Pizzisso. Ma non ti è passata ancora? No, no. Oi, oi, povero Natalino. Ma voi come mai non avete fatto il vaccino? Se è gratuito, mi pare. Perché se faccio il vaccino lo piglio invece di una volta, la piglio tre volte. Oh, sarà. Non lo so, vabbè, io non ho fatto nessun giovane, relativamente giovane, ma no, mamma l'ha fatto perché è ultra settantenne, diciamo, no? E sai, preferito farlo, tanto non ha pagato nulla. Lo so, ma a me l'ha preso male. Già ti porto i fiori sulla tomba. Vada retro, Satana. Vada retro, Saragat. Claudio, ci sei? Claudio, ci sei? Ho letto i messaggi. Non c'è, vabbè. Mi ha mandato i messaggi. Oh, yeah. Insomma, abbiamo mangiato a sbaffo, abbiamo giocato, io ho vinto una volta, poi alla seconda volta non mi ha voluto i soldi, quindi meglio così, dai. Però la giornata era veramente strepitosa oggi, guarda. Strepitosa. Fuori, dico, com'era. Bene. Domani giro al mare, se Dio vuole, lunedì a mangiare il kebab. Da uscia, da uscia. Io non posso mangiare neanche cosa, niente, perché ho sviluppato un'ipersensibilità a tutto. Da quelle medicine, da quella tachipirina, amico. E vabbè, prima o poi dovrà passare. Sono, guarda, distrutto. Ma voglio chiamare io, E chi è? Oh, scusa, ti avevo scambiato per Claudio. Eia, Franco, Marco sono. Dalla portante, dallo stacco ci andava Claudio. Perché io e Claudio, non sai, era portante, si trova a te. E allora, cosa stai combinando? Cosa sto combinando? Niente, sono tornato adesso, eravamo a far visita, abbiamo mangiato, abbiamo giocato. Non a carte, a giochi di società. C'è Natalino anche, mi tutto incicciato. Ancora non l'è passata l'influenza. Come è tutto incicciato? Ce l'avamo uscito adesso, diciamo, a 5-10 minuti fa, eravamo qua con Claudio. Eravamo. Qui lui si è allontanato a portare il cane, io mi sono allontanato per un'altra cosa. E via. Natalino, ma come mai cicciato Natalino? Mi ha preso l'influenza male, guarda, Zogu. Da prima di Natale è tutto messo male. Chiappa, la prima di Natale. Come è grossa. Ma brutta però, Non riesco manco a parlare. Chiappa, Natalino. Caspita, però la ti ha preso veramente bene. L'ha preso questa volta. Vedi? È un casino, un casino. E guarda, tirata lì, vedi, quello che posso dire. Capita. Sono influenze grosse, ce ne sono tanti casi di queste influenze quest'anno. Marco! Un attimo che sto leggendo delle tabelle. Delle tabelle di frequenze. Ho capito, Dici, e tu mi dirai se hai capito qualcosa. No, adesso ne è uscita questa cosa nuova, secondo qualcuno, mi ha mandato le tabelle, beh, cosa vorrebbero dire le tabelle? Dice, adesso che gli amatori partono dai 4.10 e si pigliano anche la frequenza PMR. Ma aspetta, guardo bene l'ultima tabella. E l'ho ricevuto anche io. E poi mi dici cosa, io non ci ho capito un cavolo, le ho guardate, le ho lette, ma non ci ho capito un cavolo, Marco. Aspetta, guarda un po', dai. Gli LPD si hanno preso a statuto primario. Allora, 433 e 434, fisso, Ministero della Difesa, mobile del Ministero della Difesa, radioamatori, MISE. Ma dove è scritto che è statuto primario, dove sarebbe scritto? Perché io non ho letto alcuna variazione, o l'ho cercato su internet e non ho letto di alcuna variazione del in UHF del, come si chiama? Del banda plan, nessuno ne parla. Radioattori 100A, 101, questo non so cosa voglia dire, guida qua non ce n'è. Poi 446, finisce 446.0. Niente, MISE, ma sono altre cose, vediamo, reti, fisse ad uso privato, che non è solo radioattori. Dove è scritto qua che sono al statuto primario? Non lo so, ci vuole qualcuno che ne sappia qualcosa. Bisogna informarsi dalla fonte, perché queste cose può essere anche qualcuno che le ha messe in circolazione, capito? Cioè, non è detto che è proprio le prossime Cagliari che abbia messo questa cosa, oppure la regione. È evidente che bisogna informarsi dalla fonte, non solo dalle cartelle che vediamo. Guarda, io ho cercato su internet variazioni band plan UHF e l'ho cercato ultime 24 ore, ultima settimana, ultimo mese, non trovo una parola che dica che il band plan è variato a statuto primario, però cioè, queste cartelle a me non mi dicono niente. Poi ci sono dei codici che non c'è la guida dei codici, mi pare una cacciata, ti pare che ti tolgono l'EPD e il PMR compreso, ma vai, allora noi 12 euro cosa le peghiamo a fare? È quello che mi dico anche io, a cosa mi sono bagagliato a fare, quando, allora a me io dovrei navigare con meno di 12 euro, dovrei navigare. Cioè, vabbè, sono per il baracchino prima di tutto. Vabbè, io comunque voglio leggere gli articoli, legge, no? Schede, contro schede. Poi banda plana credo abbia valore nazionale, cosa vuol dire che Cagliari si fa le frequenze che vuole? Non credo, né la regione né... Vabbè, comunque bisogna chiedere a qualcuno che le sa. Mi pare una cacciata, comunque vediamo. Però non era stato valutare neanche, Marco, non era stato valutare, che può essere anche una cosa seria, può essere. Però, sapendo le di più, diciamo, ricordiamoci da chi di dovere, forse riusciamo a avere qualcosa di meglio. Perché probabilmente qualcuno, magari forse radioamatore, avrebbe messo in giro queste cose qua, tanto per rompere le scatole. Però non è, come ho detto sempre, come ti ho detto poco fa, non è la sottovalutata. Sì, no, perché chi me l'ha mandata mi ha detto, dice, si sono presi anche i 446 MHz LPT, invece qua questa scheda si ferma a 446.000, non è assolutamente menzionato la banda LPT che va da 446.0 ai 446.1, capito? 006, 0081, capito? Va bene. Non so da dove sia arrivata questa fonte, Claudio, non c'è alla radio poi? Probabile se c'è Gianfranco. Gianfranco, ci sei, l'ascolto? Ma Claudio, mi pare si sia pigliato un apparecchio digitale, non vorrei che adesso facendo il digitale, capito, non vuole che entriamo né in PMR né nell'LPD, non lo so perché mi aspetto di tutto ormai. Ma no, non lo so questo sto dicendo tutto, fino a poco fa sto parlando io con Claudio ed era contrario a tutto ciò. Va bene, va bene. No, perché abbiamo sentito fesserie in PMR, stanno registrando, stanno arrivando, la denuncia non tratta. Beh, c'erano tutte menate, capito? Ma è quello che ti ho detto poco fa. Non vorrei che fosse qualche cosa invasa da qualche radiatore che non volesse che entrassimo in quelle frequenze lì. Vabbè, ma i radiatori da una vita che non si fanno i cazzi loro, capito? I radiatori devono pensare esclusivamente alle loro fette di frequenza. Quello è che sia al di fuori delle loro fette non gli deve interessare. Non gli deve interessare. Ma siccome i radiatori pensano anche ai cazzi degli altri, scusando la frase, penso, e allora si intromettono anche nei cavolinucci. Sì, perché alcuni radiatori in passato, non dico adesso, ce n'era uno in particolare, buonanima, che faceva lo sceriffo di tutte le frequenze, come sentiva gente magari abusiva, subito si premeva la briga di registrare, inoltrare denunce, cose, ho capito. Come se loro fossero legittimati a fare i garanti della legalità di tutte le frequenze esistenti, capito? C'è una patente, c'è un radiatore, possono essere quello che dicono loro, possono uscire con 500 watt, però escono con 1000 watt, però non gli dicono niente a nessuno, anche se sono 500, quello che devono usare, però escono con 1000 watt, però non gli dicono niente a nessuno, noi non glielo possiamo dire, e loro, secondo loro sono regolati. Sì, anche ben più di 1000, anche 4000, qualcuno c'ha lineari grandi come un frigorifero. Vabbè, io ho detto 1000 per dire, non dire il resto. No, sono giganti, sono bravi, sono radiatori, sono bravi. Perché quando prendono la patente mi fanno entrare in 27 a questi qua? Ebbene, scappati siete. Già sono qui io. Cosa? Già sono qui. Che voce bassa che c'è. Sta pigliando il brutto vuoto, c'è un certo. Ci sono così tanti che mi ha ammazzato. È bella l'agricoltura, sei visto dai. Grazie. Marco. Aspetta Marco. Marco. No, negativo. Sto dicendo che da prima di Natale sono a Rubise Cocca, in Ruretto, poi mi sono pigliato il sogno, non riuscivo a dormire, manco mai mia moglie era manco quella a dormire. Oh, yeah. Va. A tutte e due ci ha beccato in una maniera tremenda. Quando è così. È un casino. Comunque Marco è in pensione, lo sai, sì? No, lo so, e cosa so? Non ho sentito e né visto nessuno. Sono contento per lui. Capo. Hanno mandato a casa, l'hanno mandato. Va bene così. Vediamo come va a finire. Avanti Marco Collo. Ho sbagliato frequenza, scusate. Mi ero spostato di vari canali. Non ne so capendo niente. No, ho chiesto delle lucidazioni ed io da quelle schede non vedo niente. Vedo solo fino ai 434 mise radioattori. E beh, io quelle schede le ho già viste, ma non c'è scritto lo stato primario. Forse è una cosa troppo fresca. Troppo fresca, vabbè, lo vediamo. Lo vedremo in seguito, dai. Ho detto, io non ho problemi, io me ne ritorno in PMR e buon viaggio all'LPD, se lo godano, si godano le loro frequenzine. Sì, anche 440 sì, dice, quella sede lì. Oh no, la scheda si ferma a 446000, l'ultima riga è 445446, noi siamo dai 446 oltre i 4460, capito? Se avessi detto 446.1 avrei potuto capire. Le schede non vogliono dire niente, io devo avere altre prove, va bene. Comunque ripeto, a me l'LPD non è primario, a me non mi interessa, a me non è indispensabile. Capo, allora l'ultima sera, guarda, Marco, 4.45, da 4.45 a 4.46.000. Infatti noi siamo dai 446.00625, siamo oltre quel limite. Noi siamo 446.006 a salire, capito? Noi non rientriamo lì, cioè quella scheda non dice nulla su di noi, sulla frequenza LPD, PMR. Esatto, è per quello che ti ho detto poco fa, io ti ho detto che mi sembra una scheda che non sia messa dalle autorità, che sia messa da qualcuno così, capito? No, la verità, io queste le ho già viste, queste schede, però vedo date all'estrema destra, vedo 2006, 2004, non... vabbè, quelle sono codici... Comunque, sul forum radioamatori non ne ha parlato nessuno. Entro le 24 ore, un mese, una settimana, non ci sono variazioni. Aspetta un messaggio, esci a vedere. Ecco. Niente, aspetta. Sto ascoltando il messaggio, ecco. No, praticamente non ne ha capito nemmeno lui, capito? Aspetta, sto ascoltando, poi vi dico. Sì, dice parte del 4.10 quella scheda. Sì, ma fa vedere. Aspetta. Buonanotte. E vabbè, leggetela, fammi capire via messaggio, no, non qua, no, non serve a niente qua, dobbiamo capire esattamente cosa c'è scritto, perché io sinceramente non ho capito niente. Ehi, aspetta, Claudio, sto sentendo il messaggio. No, semplicemente dice 4.10, 4.8, Ministero della Difesa, e fa vedere tutte le cose del Ministero della Difesa. No, 4.10, 4.30, non so, tutte le cose del Ministero della Difesa, servizio mobile, reti a uso privato, tutte quelle balle lì. Io vedo solo 4.30, 4 in Fruscia, radioamatori, più gli altri servizi. Cioè ci sono delle parti gestite dal MISE e da radioamatori, altre parti del Ministero della Difesa, tipo 4.30, 4.00, 4.35. O meglio 434995, provi voi. Qual è tutto il Ministero della Difesa? Ma io questa scheda le ho già viste. Queste schede a me non dicono niente. Non dicono che i radioamatori sono a statuto primario. Poi c'è una cosa proprio nuovissima, nata un'ora fa, io non lo so. A parte, se vogliamo essere pignoli, c'è un recente decreto che dice che i canali LPD si possono usare tutti, dall'1 al 69. Non fatemi cercare la legge perché non ne ho voglia, andate su Roger K, ve la trovate. Però sui 4.30, su tutti i 4.34 bisogna fare attenzione, perché ci sono i ponti ripetitori, forse l'ordine, i vigili del fuoco, quindi bisogna andare sui canali vuoti o possibilmente al di fuori dei 4.34, che sarebbe meglio. Qui i canali LPD tutti validi sono, ovviamente non devono interferire con servizi civili, radioamatori, ingresso a ponti, uscita a ponti, bla bla bla. Io su questo sono d'accordo con te, ma quel foglio lì parla di quello che fa Beccato, non mi piace stare qui a parlare, non ci ho capito niente, Marco, me l'hanno mandato, non ci ho capito niente, comunque, non lo so, ma quindi quello, il canale 1 si può usare? Guarda, io ho cercato, allora seguimi bene, ho messo le parole, variazioni, band plan, UHF, radioamatori, ho cercato, modifiche, variazioni, band plan, UHF, radioamatori, ultime 24 ore, non risulta nulla, ultima settimana, non risulta nulla, ultimo mese, non risulta nulla, almeno di notizie fresche, io non ne vedo, su Roger K, che è radioamatori ECB, non parlano assolutamente di niente, né di variazioni di plan e di nulla. Sì, ma non metti il Ministero delle Telecomunicazioni, perché pure sono così, cioè io non sapevo niente. Mi hanno detto che dal 2015 che è stata praticamente modificata, io sono rimasto al 2010, sempre stato tutto secondario, poi ti ripeto, non sapevo assolutamente niente. Ma guarda, io ti dico che tutti i band plan, che trovo tutti i band plan mi dicono UHF è statuto secondario, non ne ho trovato uno che dica primario è solo UHF. Ma dimmi la verità, da chi parte questa notizia? Dimmi da chi parte, più o meno. A me me l'ha mandata Stefano, non ho niente da nascondere, ok? Stavamo parlando così e mi ha detto, ho visto qualcosa su internet, ce la mando. E me l'ha mandata, basta, non è che mi ha detto niente nessuno, eh. Roba così tra di noi sempre, capito? E leggendo ho visto questa cosa, 4.10, 4 un casino, cioè non ci ho capito niente, capito Marco, perché te l'ho girata a vedere se riuscite a farmi capire qualcosa. Eia, no, io l'ho già viste quelle cose, io le ho già viste. Quelle schede le ho viste papale e papale uguali. Ma non è novità, aspetta, a meno che non metta MISE, Ministero dello Sviluppo Economico, ma lì, mamma mia, lì è un casino consultarlo. No, vabbè, ma cioè, giusto per capire, Marco, se non è stasera, un altro giorno, con calma, vai a vedere tu che giri molto il computer, io voglio pure accendere, fare, girare, bim bum bam, capito? Non... che volevo essere tranquillo, sicuro e senza rompere la mano a nessuno, capito? Perché anch'io sono nella stessa situazione, non è che cambia niente per me. Se non posso usare, non posso usare neanche io, capito? No, ma non sto parlando di secondario o primario, sto parlando che sono state aggiornate le frequenze, capito? È lì il problema che mi stava dicendo. Guarda, io frequento ogni giorno, ti ho detto, Roger Gaffa, sono radioattori ECP, non ho letto niente di che, io sapevo solo entro da qui a un anno che prima i megahertz erano pari dai 50 ai 51, o meglio 50 ai 50.999, o non mi ricordo, le hanno ampliate di un megahertz, se prima arrivavano ai 51 ci arrivavano ai 52, o se erano dai 51 ai 52 adesso fino ai 53, tutto lì, non lo so, adesso guardo. Non so cosa dirti, ma ti ripeto, io ve l'ho girato a te, a Giulio, a Tarino, per vedere se riuscite a capire qualcosa e farmi capire anche a me, perché io con tutta la mia esperienza, che sia poca, che sia tanta, non ci ho capito un accidente, vorrei capire di più. Io non sono entrato per niente lì a chiacchierare, fatto non vorrei che, insomma, capito, però voglio capire, se tu con calma riesci a farmi capire qualcosa, ben venga, perché fino adesso io ti ripeto, non ho capito niente, assolutamente, cioè, se li hanno riprese, se sono sempre le stesse, non ci ho capito niente. Io lo so, qua purtroppo consultare sviluppo economico, ministero, ministro, temi, perché cittadino, temi, energia, comunicazioni, e vabbè, lungo l'affare, però io cado dalle nuvole, non ho mai sentito variazioni. Anche io, se non sa qualcosa Gianfranco, è che Gianfranco non c'ha WhatsApp, quindi non le posso girare quello che mi hanno girato a me, perché poi dopo di marciare in treni, ciucciù, questa giornata bella di oggi, io non apro la finestra, entra vento da qua, gli altri stanno iniziando a muoversi, maestra. Ciao Gianfranco, buonasera, hai qualche variazione tu? Primario, secondario, senti a Marco che gli ho girato della documentazione che mi hanno girato a me e non ci ho capito un accidente. Allora, Gianfranco, ti risulta che ci siano variazioni nel plan UHF in quanto a espansione frequenze, statuto primario, secondario? Non ci guardano, sono abbandonati. tramite 700 MHz o giù di lì alla televisione per dare 5G, tutto lì. No, ma voi radioamatori, vi risulta che in UHF siete passati a statuto primario? Non vi risulta, no? No, non credo. Guarda, se Gianfranco secondo me lo sa, se ci fosse stato quel PMR, poi quella scheda, ricordati Claudio, quella scheda si ferma in 446000, o per meglio dire, dovevano scrivere 445999.9, eccetera. Non parla di copertura dei PMR, assolutamente, altro meno. Oh. Vabbè dai, comunque niente di che, niente di che. No, ma figurati, no, io ho letto lì, per quello che l'ho mandata, perché sarebbe veramente assurdo che si prendessero tutte queste frequenze da 410 a 440 CF, farne che cosa, mi sembra strano, beh certo, no, per carità, beh anch'io non posso più trasmettere nella mia lì in mezzo, nelle PD, non capisco, adesso vediamo Gianfranco se ha qualche variazione, non so, metto, ripeto, ma l'ho mandata, io te l'ho girata per vedere se capivi qualcosa in più, perché io sinceramente non ci ho capito niente. Gianfranco, qualcuno gli ha dato queste schede, no? Questa è una specie di schede di ripartizione di frequenza, no? E dice dai 4.10 ai 4.46 tutto radiatori, no? Guarda, 4.10, 4.20, Ministero di Difesa, mobile esplosivo o mobile aeronautico, pure MISE, ricerca spaziale, ecco, questo qua, tutto qui, no? Non menziona radiatori, non esiste. 4.20, 4.30, allora, Ministero di Difesa, tutto, sì, dunque, mobile esclusivo o mobile aeronautico, oppure radiolocalizzazione, poi a seguire Ministero di Difesa, poi MISE e radioamatori, vedi, dai 4.30 a 4.33.0. Claudio, non c'è niente di strano qua, ci sono le varie cose, Ministero di Difesa, MISE, Ministero di Difesa, MISE, tutte quelle sono che gestiscono quelle frequenze lì. No, i radioattori non partono assolutamente ai 4.10, non so dove l'hai letto. Io questa scheda, ripeto, l'ho già vista secoli fa. Ma, caspita. Cioè, capite, io non ne ho capito niente. A me me l'hanno mandato, io ve l'ho girato per capire. Sto cercando di capire. Adesso ho capito. Sì, Marco, io ho letto. Ti ho letto, sono di, io ho letto da 4.10 a 4.46, volevo capire, mentre rimane sempre il fatto da 4.30 a 4.40 penso che sia amatoriale, comprese le frequenze, quelle LPD a statuto secondario, giusto? Sbagliato, 4.30 a 4.38.00, esplosione dei 4, di tutti i 4.34. Oh, perfetto, perfetto, perfetto. Adesso ho capito. Quindi 4.33 è sempre utilizzabile come LPD e per il radioamatore è statuto secondario, giusto? Questo volevo capire, perché così ho letto lì, non riuscivo a capire. Sì, guarda, addirittura 4.38, 4.40, qua dice il MISE fisso, non so di che cosa, però fisso, non dice radioamatori. Poi c'è una fettina, sempre tra i 4.38 e i 4.40, Ministero di Difesa, radiolocalizzazione, sì, tutto lì, cioè, come mi ha mandato il messaggio, aspetta, com'è che mi hai detto? Non so, da oggi non possiamo più usare l'LPD e il PMR e tutta la radiatori, ma hai fatto scendere in un corpo, hai fatto accendere. Ecco, io ti dovevo dire, ho detto no, ho detto diversamente, ho detto vabbè che si è rimigliato e tutto, non possiamo più usare né una né l'altra adesso. Perché così ho letto io, così ho letto lì a YouTube, ma questi sono dei fatti. questi sono dei pazzi. Fare che cosa poi tutte queste frequenze? Utilizzare che cosa? Adesso ho capito, praticamente sono separate, ognuno ha la sua fetta, eccetera. A me mi interessa che io posso parlare lì a 433 nel PD, poi degli altri non me ne fotte nulla. Che è quello che mi hai già detto, giusto? Che se siamo tre radioamatori dobbiamo usare il nominativo, così è. Discutendo di questa storia, è la potenza che non si può usare, è le antenne, ma la frequenza rimane sempre libera per chiunque. Aspetta che c'è la modulazione sotto, mi sembrava Giulio. Sì, ti ho capito Gianfra, ma non stiamo cercando per roba, non mi interessa niente. Quello che io vi ho girato, volevo capire anch'io, perché non ci ho capito l'accidente. Giulio, vieni avanti. Ciao, buonasera a tutti. 433-075, 433-550, canale 21, cioè da 1 a 21 rimane sempre quella la frequenza. Quello che non si può utilizzare è la potenza e le antenne esterne. Bisogna usare la bassissima potenza col suo gommino. Lo stesso discorso vale per il PMR, non venuta da va, è utile che si giri sempre. Qualcuno è venuto di nuovo il mal di pancia e ha voluto togliere questa notizia. Evidentemente si aveva preso qualche gutalax un pochino potente ed è venuta la diarrea. Ecco qual è il discorso. Dai, io sto scendendo a cenare, ci sentiamo a tutti. Dai, ascolto la vostra risposta e poi scendo per cenare. Ciao a tutti, riprendi qua. Grazie Giù, io mi sono permesso, scusa, di girarti questa cosa perché sinceramente non ci ho capito niente. E come dice Marco e come Station, io sono rimasto sempre a quello statuto vecchio e mi adeguo con lo statuto vecchio, nel resto non me ne fotte blu più nulla. Ciao, buona cena, grazie dell'intervento Giulio, ci sentiamo. Vai Marco. Ciao Giulio, guarda che tutti i 69 canali sono utilizzabili, l'ho letto. Non lo so, non mi fate cercare l'articolo di legge perché non più voglio, è una cosa abbastanza nuova. Però per il resto ci sono servizi delicati, quindi è meglio non andare. per quanto riguarda noi nell'FD, cioè non è che siamo borderline nell'FD, siamo proprio ben oltre la legalità, però insomma, va bene, ce lo sa, no, è quello che ha detto Gianfranco, noi praticamente ci sono anche apri porte, delle macchine, ci sono un'infinità di servizietti che lì noi non sentiamo, ma magari magari con la potenza un po' alta potremmo disturbare lì. E beh, come il PMR alla fine. Va bene, va bene. Va bene. Aspetta, non ci sto capendo niente da un cuglio adesso. Vai Gianfranco. L'articolo su Roger Capa l'hanno messo, insomma, diceva, faceva capire, potevi usare voce, dati, naturalmente è ovvio usare frequenze vuote, cioè se sentite traspondere i rifugi urbani, andate bene, ben lontani, insomma, comunque è un casino, comunque è vero, c'è un casino, ci sono forse o ingressi ponti amatoriali, uscite ponti, insomma, bisogna stare molto attenti, soprattutto con le potenze che siamo noi. Vabbè, ok, su questo va benissimo, a me mi interessava capire quella cosa lì, basta, va bene così, sono più che soddisfatto e contento. Domanda per Gianfranco, quindi io in frequenza secondaria, quindi a 433 e 500, devo usare 500 mW, io radioamatore? 10 mW e antenna fissa, e apparato anche omologato. PD uso 10.000 watt con Marco e abbiamo le antenne di gomma, vero Marco? Magari ci crede Gianfranco, con 10.000 watt non andremo da qui a 50 metri in città con i palazzi. Allora, Gianfranco, capo, calcolo assorso. La cosa Gianfranco, ma se io becco per dire due, tre radiolatori che stanno parlando nelle PD e io voglio entrare a salutarle che non sono un radiolatore, quindi posso entrare oppure perché loro usano il nominativo, io dovrei fare la parte, mi potrei entrare come tutte le frequenze radiolatoriali. Tutto si rivale sempre sul market, allora come avete Giulio poco fa, sì, vabbè ti ringrazio Gianfranco, comunque sai, metto di nuovo il microfono lì a Claudio. Aspetta, ma Gianfranco, ma non era pur vero che l'elettricista può parlare solo con l'elettricista, con apparecchi omologati, ma non con radioattori? Cioè, radioattori solo radioattori, elettricisti con elettricisti. Poi vabbè, se fa un saluto non credo che gliene tagliano quella cosa lì. Aspetta, ciao Fra, comunque abbiamo chiarito Fra, continueremo a far vedere i chili, non ti preoccupare. Allora il discorso è molto chiaro, se sto parlando io, radioamatore, con Gianfranco radioamatore, Stefano radioamatore, e stiamo usando tutte e tre il nominativo, tu pensi che se entra Marco e dice ciao Claudio, come ciao Marco lì? Ma stai pensando che non risponda? Assolutamente no. Ok, è una cosa diversa quella, non c'entra niente. Però se sto parlando io, Marco e Franco, io sono Claudio, Marco e Franco, a me se entra un altro radioamatore, io lo chiamo Mannomo, non è che le dico dammi la sigla, no, io rimango sempre Claudio e continuo a parlare con Franco e con Marco. Questo è il punto di vista, mi già fa. Cioè, quello volevo capire io, perché sembra che lì debbano attenersi tutti alle regole, tutti devono fare quello, tutti devono fare quell'altro e nessuno va di nulla. Ecco, questa cosa mi ha un po' preoccupato, ecco. No, aspetta, ne dico una io. No, io assolutamente, se sento che parlate tra i natori, non solo non mi saluto con 5 watt, ma nemmeno con 10.000 watt. Se siete tra i natori, io non mi tocco nemmeno, anzi, me ne so alla larga. Mi frequenta. A pigliarla. Non può chiedere. E io ho sentito a te. Infatti, non conviene andare a disturbare, neanche un saluto. Se loro stanno usando quella frequenza in modo primario, non conviene entrare. Ma cosa primario? Quello che ho detto io, Natalì. Io, se sento radioamatori, anche Claudio che parla con altri radioamatori, io non entro né con 5 né con 10 milliwatt, non metto bocca. Se Claudio mi chiama come l'epidista con tanti watt che non dovrebbe avere, allora lo saluto. Perché tu sei abusivo peggio di lui. Sì, Marco lì, ma è questione di educazione, non è questione, è questione di principio, di una persona che sa come si deve comportare. Ma se uno non lo sa, che a me sente la mia voce, nonostante io stia parlando con Gianfranco con l'ominativo, e mi saluta, io doverosamente lo saluto, non me ne fotte nulla. Ok, tu dico, aspetta un attimino, quando Gianfranco non c'è più, che va via, e io mi chiamo Claudio, continuo a parlare con lui, nessuno me lo impone, giustamente come ha detto Natalino, ciao Natale. Questo volevo capire io. Poi tutto il resto è noia, come dice Franco Califano, ok? Oh, bene meda, bene meda. Scusate un attimino, facciamo questo discorso qua, che mi sembra molto pratico e semplice. PMR, va bene? Da 1 a 69 canali, e questo questo lo Brundi, cioè uno batterino comprato in un centro commerciale. Io abito nello stesso palazzo dove c'è un radioamatore. Io sono bambino, va giù dei Zanni, tanto per essere chiari, e mi gioco col portatilino, anche con 10 milliwatt, potrei disturbarlo perché siamo nello stesso palazzo. E che cosa mi può dire? Non gli faccio nemmeno il solletico. Io la penso in questo modo, riprendi qua. Io gli ho fatto una cosa molto semplice, dove abbiamo capito. Io quello sto dicendo, cosa me la futta a me dei 1000 watt, dei 10 watt, dei 5 watt? È importante che noi chiacchieriamo, che nessuno, che non andiamo a disturbare nessuno, che nessuno ci disturbi e tira campà. Giustamente, se io qua nel mio palazzo c'è uno che trasmette nell'PD con un portatile di quelli che vendono, che vanno in più di 50 milliwatt, Gianfra, o di 10 milliwatt, se a me mi disturba, io cosa devo andare a dirle? Cosa devo farle? Cosa me ne affutta a me? Io le passo sopra, le parlo sopra, cosa non mi interessa a me? Però quello che c'è scritto lì sembra che chissà che cosa, ma che vada a impiccarsi. È un discorso molto aleatorio. Poi scusate ancora una cosa, dai, poi vi lascio che devo scendere per porta, che sono già in ritardo per la cena. Siccome noi abbiamo, noi CB, io parlo di CB, abbiamo assegnati in prima fascia, praticamente siamo primari, dall'1 al numero, io parlo dell'RPD, dall'1 sino al 21, 433, è giusto. E finisce a 433 550. Poi c'è uno stacco, cioè, di alcuni megahertz o diversi megahertz. I radioamatori devono partire da 434 in su. Dunque, che cosa gli puoi fare? Nemmeno i soldetti. Sì, ma io ti ripeto giù, è così, e boh, io mi ricordo era così, sono rimasto al 2010, qualcuno ha detto che sono state aggiornate nel 2015, io non so niente, no, non ho letto niente, non so niente, continuo a fare quello che facevo prima, non me la futti buchi, manco, va avanti camera, ok? Ok, dai, vi saluto, che sono già troppo in ritardo per la cena. Ciao Franco, non ti avevo sentito da un po' di tempo, ti saluto adesso. Ciao Claudio, Marco e Gianfranco, saluto a tutti, dai, chiudo direttamente, non ascolto nemmeno fino a io perché mi hanno chiamato già 8 volte. Ok, ciao, chiudi, vai Marco. Ciao Giulio. Ciao, vai Gianfranco. Thank you. io quali sono amatoriali, perché la patente ci eravamo andata studiando, no? Mi ricordo io, e quando abbiamo preso noi qualcosa si doveva studiare, non certo adesso acquisti, capito? Quindi soprattutto disciplinari e normative eccetera le conosciamo un po' tutte le amatori. Quindi di qua stiamo parlando, già fra 500 watt dobbiamo usare, ma qua siamo già arrivati a 5 kW. Ok, ho detto tutto, aveva ragione Vittorio allora quando si incazzava. Quindi se la legge vuole per tutti, la legge vuole per tutti. Quindi di cosa ci va a vedere? Stiamo parlando di fumo. Ok, allora vivi e lascia vivere. Ognuno fa quello che le piace, basta che non vada a pestare i piedi a nessuno, parla tranquillamente con i suoi amici e continua a passare la giornata in serenità e tranquillità. Poi per il resto, giustamente, non è che puoi andare a rompere scatole a nessuno. Però, se io sento due, Marco e Giovanni, che stanno parlando nel canale 1 LPD, io sono radioamatore, chi c'è l'abortante? Oh, qui vuoi protestare, io sono radioamatore, bim bum bam, anda a chiudete la radio, così devo fare. Sono loro a me, ma cosa vuoi? Maga sì, ma t'avviderò, perché loro sono a statuto primario, noi siamo a statuto secondario. Quindi io lì mi chiamo Claudio, parlo con Marco, con Peppino, con Antonio e con Giovanni. Di essere un dottore non me ne fotte nulla, punto. Questo è il principio che sto dicendomi. Aspetta, chi è a statuto primario? Voi. Voi chi? Quale frequenza? Quale utente? LPD, per voi, per chi non ha nome nativo, è primario, capito? Sei tu che comandi lì, non io radioamatore. No, che l'LPD c'ha statuto primario non esiste proprio. A me no, no, non mi risulta. Gianfranco? Sentino a Sassari. Noi possiamo dire niente, non siamo ospiti di lì. Quindi se c'è qualcuno che entra e dice buongiorno, sono Tizio Caio del Ministero, mi va bene portare le carte di Stupano, perché qua ci siamo diffusi e allora ci sa che ci possiamo rispondere. Però siamo anche noi ospiti. Nelle tutti invece sono Cattoli. Io ho letto sotto primario, non è la parola esatta, dico ma è Marco che a me mi può dire di vai dimmi, non io a lui, quello ti volevo far capire, mi hai capito? Ci siamo capiti comunque, vai, a futti dimmi, adesso me ne vado a mangiare. L'importante è che abbiamo chiarito, cioè quello che io ho letto sono cose che non me la futti nulla, vai. Ok, vado a mangiare, ciao Franco, ciao Gianfranco e chiunque fosse l'ascolto qua sul canale 10, a più tardi se ci siete, se no domani, ciao. Te lo dico al telefono, non te lo dico qua. Ah, l'ho mandata, ti dico, tutta la mattina che stavo leggendo, facendo, cercando di capire, l'ho girata un po' a tutti, a Natalino, a Giulio, a Marco, a Franco, per farmi capire, capito? Per farmi capire se effettivamente ciò che c'è scritto lì è come pensavo io, invece non è come pensavo io, è tutt'altra cosa, ok? No, Gianfra è una semplicissima tabella di ripartizione delle frequenze, delle 4:10, ecco Claudio, però questa panciana che l'LPD è primario non esiste, l'LPD non è primario come non lo è il radioamatore in UHF. Dove l'hai letto che l'LPD è primario? È una mega stronzata. Ho detto primario per farti capire che tu sei in prima persona lì e io sono in seconda persona, quindi da questo livello, ecco. E chiamiamolo bambino, però lui ha sempre più possibilità di parlare lì rispetto a me, perché io sono più handicappato, nel senso che sento l'animatore, io devo usare la sigla, devo parlare con l'animatore, mentre lui può parlare con chi vuole, ecco, quello volevo dire. Non è vero, anche tu vuoi parlare con gli LPDisti purché abbia l'omologanza di 10 milliwatt. In poche parole, mi cerca di capire, cazzo stai incasinando. Allora, gli LPDisti parlano con gli LPDisti, apparecchi omologato, altresì il PMR, apparecchi omologati, cioè già lo sappiamo, ecco, i radiatori con i radiatori, tutto il resto è illegale, te la faccio così, alla breve, tutto il resto è legale. Laga, laga la mondezza con la mondezza. Ho capito. Allora io dal 1993 a oggi sono stato sempre illegale e ti dico una cosa, finché quando Gesù Cristo mi raga rimango sempre illegale. Come me. Ma io, se lì il PMR, vabbè dai, le ripeti primario, ma lasciami la notte Claudio, queste cose. Cioè tu in LPD non puoi chiedere all'allenatore di spostarti, ma neanche l'allenatore te lo può chiedere, a meno che non stai disturbando qualcosa. Vabbè, lasciamo stare. Comunque dovete, tutto è legale in LPD, siamo illegali in PMR pure, perché le potenze sono alte, le antenne sono esterne ed sono cose che sappiamo e di cui ne abbiamo già parlato, non c'è nessuna novità. Ma io l'ho patente perché cavolo l'ho preso per parlare con me. Marco, ho capito, non volevo dire primaria, volevo dirti nel senso che tu parli lì in primis e io parlo in secondo con Gianfranco, ecco questa è la frase, ok? Ho capito perfettamente, vabbè, allora Giretti mi dice che c'è Cagliari Juventus, ciao a tutti, correti per me, ci sentiamo domani nelle PD, ciao. Aspetta che mi stava rispondendo Franco in LPD. Sì, Gianfranco, ci sentiamo al telefono e tu non hai WhatsApp, non te lo posso girare come l'ho girato agli altri, sennò te l'avrei girato e ti avrei mandato anche il messaggio di chi me l'ha mandato, ma qua non te lo dico, ok? Va bene, dai, ci sentiamo che sta iniziando la partita. Buona fine serata a tutti e forza Cagliari, ciao. Ciao. Oh, ci sarebbe da scrivere un libro, Niente, Gianfra, era una semplice, l'ho vista mille volte, una semplice tabella di ripartizione delle frequenze, dai 410 al 446.0, tutto lì. Poi Claudio ci ha ricamato sopra. Cosa c'ho? Ricamato sopra, tu la prima frase che mi hai detto, che mi hai quando mi hai mandato le tabelle, aspetta com'era, che se no non... L'LPD non si può più usare, così mi hai detto, è diventato a statuto dei radiatori, primario o cos'era? Così mi ha detto quello che mi ha mandato il coso, e quindi era talmente sicuro che io ho ripetuto la stessa cosa che ha detto lui, ma se è alla fine è quello che state dicendo voi, è in realtà a me, cancello tutto quello che ho detto, non mi interessa, a me quello che mi hanno riferito ho detto, quello che mi hanno scritto ho girato, Marco, cosa te devo dire? Così mi hanno detto, addirittura mi hanno dato l'anno, no, dal 2015 è tornato a far tutto primario, ho detto guarda che stai dicendo stronzate, non è così, perché io, cioè nessuno mi ha avvisato, neppure frequento persone che anche, insomma, che anche da poco io ero con uno che, vabbè, capito, me l'avrebbe detto perché mi sente lì, perché me l'ha anche detto, ma tu sei sempre in LPD e non entri mai in banda amatoriale, fa vedere un caso, con un coso, mano tenante, capito Marco, quello che sto dicendo, ma ecco, se balle mi hanno detto, balle vi ho raccontato, se cose stronzate mi hanno girato, stronzate vi ho girato, non è che io ne ho colpa. Ok, dai, vi abbraccio a tutti, vado a vedermi la partita. Buona partita, va bene. Franco, ma perché tu davvero la patente all'arrivatore, Fregio? No comment. Ciao Claudio! È colpa di Natalino, tutta colpa di Natalino, No, non sapevi, anche io però io nominativo, bravo. Boh, ma chi ti gui? Franco è diventato un animatore, si chiama ISZero Ullala. Vai che non è vero, che quello sono io. Se non usare quel nominativo che ti denuncio, Porca miseria, Natale, mi sono dimenticato. Allora Franco fa l'altro. Boh. Non me lo ricordo. Sì, sì, Natalino è ullalà. Ah, tu ti vedi chiamato, non è attivo. Ma se mi chiedi se cambia, non me l'hanno chiamato. Io non sono fasullo. Prendetevi la questione, ragazzi, dai. Abbiamo chiarito alcune cose, alcune stronzate, dai. Ciao Marcolino, un abbraccio a tutti, dai, vi vado a vedermi Cagliari, che c'è Cagliari Juventus. Ok, e c'è quel pazzo del mio genero a Cagliari stavolta. Che se perde la Juve perché è andato lui, dovete non ci tornare a Sassari perché ti incendio la macchina. Ehi, a Claudio, comunque quelle le cose che dovevi già sapere da prima, perché le so io, non potevi non saperle tu che sei radioamatore. Io ti ho detto che sono CB e CB voglio morire, e quindi ne so meno di te. C'è da fare un libro, oppure da avere i contributi per la... come si chiamano? La sanità mentale qua. La John Fraghista è assurda. Ma che idea. Marco, lascia perdere, non mi chiamare a me l'elevatore, tutti io sono CB e me ne vanto di essere CB. Lascia perdere più voi di me, perché voi siete aggiornati, io non più manco ballati in camera, me ne basta a me, vi sta tutti e starnuti, ciao! Ciao, buona partita, dai! Non ti dico buona, se no poi perdete, dai, non ti dico. E lascia lì sempre quel discorso. Uno fa in PMR, usa antenne SM, le potenze più alte nelle PD, è illegale e se ne prende le proprie responsabilità. Però se lo pizzicano, pizzicano forte, quello è vero. Ma è roba di giapputa, quindi inutile stare a dire no, ma io... No, no, no, non ce n'è, non ce n'è. Gianfranco sarà scandalizzato, immagino. E io so. Ma come si fa a eliminare una moglie che gli passa prima l'influenza? E sta mangiandosi tutta la frutta secca alla faccia mia. Allora, vuoi eliminare? Allora, ricina. Devi ottenere la ricina dei semi di olio di ricino da sintomi dell'influenza e pochi giorni va in cielo. L'ho visto in televisione. Ah, che bello. E non lascia alcun segno, non lascia segni, quindi nessuna prova. E così bisogna fare, eliminarla e boh. E occhio che non te l'abbia messa lì la ricina, ecco perché c'è l'influenza. Sembra un'influenza, invece no. Ehi, davvero, mi dice a me ammazzendi, piano piano, piano piano, finza che non si ponga un rubino in fallo. Dunque, non lo dico sulla banca, ma io non ti ammazza a bici. Gianfranco, ci sei ancora? Sì, non sto guardando, cercando nel mare maiale, perché tu sono anche per questo problema, a prescindere dallo spazio primario e secondario, addirittura dice 446 sono amatoriali, ma sì, amatoriali, mi ha detto, i canali di PMR sono diventati amatoriali, dice John Colt, invece no. Poi quella tabella, a parte si ferma ai 446.0, comunque no, gli ha detto una persona seria, ma gli ha dato solo le tabelle, non può aver detto quelle cose. Non può aver detto quelle cose, una persona è modula con noi, non... Va bene. E non ti neanche parlare, dai. Oh Marco! Eia! Ma se ti ricordi, qualche annetto fa era successa la stessa cosa, era successa. Su Dino si poteva più parlare che era nel notoriale. Non mi ricordo se è un anno o meno o più, non mi ricordo bene. Però era successo che non si poteva più parlare, se ti ricordi bene. Lo so, perché prima entrava in PMR. Qualcuno, stanno registrando la denuncia già avviata, qua là, le foto fatte a tutti i PMR abusivi, allora siamo passati nel PD, anche lì è stata rovinata la festa, allora è passato in PMR di nuovo, cerca di capire. Infatti sto pensando a quello lì, ho pensato stasera. E non so se qualcuno che ha tirato la voce un pochettino, pochettino più alterata, che ha detto questo cazzate dell'LPD questa volta a tirare. Poi non lo so se è vero o non vero, è tutto da vedere. Ok, avanti Gianfranco, scusa la fine. Uno in TDMA, l'altro in FDMA, e si domandavano come mai non funzionassero. Praticamente Pomponio c'ha quel digitale che ho io, una portata onda, gli altri volevano farli comunicare tra loro, anche se mi pare lo standard era diverso o il codec era diverso, e si domandavano come mai non funzionasse. E glielo ho detto io perché sono due cose differenti. Mi pare che cambi tra FDMA e TDMA e poi il codec, non lo so. Cioè, hanno cercato di far comunicare due cose che non potevano comunicare tra loro e poi si sono meravigliati. Come mai non comunica? Cazzo, scusa la parola. Anche quello. E poi vabbè, ma detto Pomponio, ma come mai non comunicano? Sono carne e pesce, uno è carne e l'altro è pesce, non possono comunicare. Poi a parte, come hai detto tu, ci vuole la configurazione adatta. Non sono baracchini, no, ho detto, non sono baracchini, li accendi e parli. Vabbè, a parte non abbiamo più usato questo digitale. Non l'abbiamo mai più usato, proprio soldi buttati sono stati, dai, va bene, pazienza. Ah sì, è la prima che hai detto, sì, di, eccetera, te lo dico già, sono quelli. Esatto, hanno tentato di far comunicare DPMR con DMR. Uno è, te l'ho detto, uno è TDMA, cioè il tipo di trasmissione, l'altro è l'FDMA. E poi appunto hai detto tu che c'entra anche la programmazione, quindi non quagliano, non possono quagliare. Comunque sottolineo che è stato un acquisto sbagliato, perché qua te che non lo usiamo un mese e mezzo, due. In effetti sono stati soldi buttati, abbiamo provato, sì funziona, beh, poi ce ne siamo stufati. Pazienza, vuol dire li rivenderemo a qualche animafia, qualcuno che non si vuole far sentire, o almeno che crede di non essere sentito. Va bene. Vabbè, tanti soldi vanno e vengono, quindi. No, conviene comprare tutti, Marco, non conviene. Siamo perdere. Tanto. Guarda. Basta, un baracchino e basta, per lui CD ci basta solo un baracchino. E alla fine, cioè questa mania del PMR, non lo so perché, cioè una volta siamo andati io Pomponi a parlare di PMR così per prova e tutti mai l'avessimo detto, ma tutti a raffica sono entrati, adesso parlano di PMR, la 27 è mezza vuota, perché prima la ruota si è spezzata, prima eravamo tutti una ruota, poi vestiti da una parte, vestiti dall'altra, e quindi siamo noi da una parte e gli altri sul 23, prima erano sul 20, poi sono entrati pure in PMR, quindi questa 27 è mezza vuota per questo. Mai l'avessimo fatto di suggerire l'acquisto di PMR, che poi non sono PMR, sono Bao Bao, è un Bao Feng alla fine. Tutti dicono, sì, c'è un omologato, c'è il gommino, sì, arrivi con lo spalanco, arrivi anche a Polottore, ma buffami luci. Sandro arrivava, Sandro Tigre arrivava, Santiago 9 al portatile, io ero sul tetto di casa, mi arrivava 9 da produttore, dice no, c'è il gommino interno omologato, ma buffami luci, cioè gli organi di controllo non li fai fissi così, si accorgono di quante potenze hai e da dove trasmetti, capito? E vabbè, comunque la 27 era la cosa migliore, purtroppo anche per questi PMR le PB è mezza così, pazienza. Capo, infatti, io volevo fare una domanda a Gianfranco. Gianfranco? Sì. Capo, tu sei un allenatore? Sì, così sembra. Ok, no, perché io non sapevo neanche che eri allenatore dell'organizzazione. L'ho chiesto per quello, perché... Allora, ma se l'allenatore è tornato su quello in digitale, come fanno delle frequenze, di queste frequenze che c'hanno prima che non usano più? Allora, questo digitale non c'entra niente con le frequenze. In teoria potrebbe andare in digitale anche in 27, quando la sua vocale. Quindi non ci sono frequenze, la prima materiale rimane sempre quelle. Io vado in digitale anche nelle PD, Franco, adesso. Sì, però credo, vabbè, la parte, come io parlo come ignorante del discorso, perché non capisco il digitale dalle frequenze. E volevo capire perché, siccome se parlano in digitale noi non li possiamo ascoltare, non li possiamo, perché non li sentiamo. E in evidenza ho chiesto per solo perché cosa mi fanno delle altre frequenze, perché se non sono le altre frequenze, però a quanto pare allora non è la stessa frequenza ma in digitale, è tutto diverso. E infatti non senti il rumore, Marco, mettiti dal canale 1 alle PD. No, aspetta che per il vento avevo smontato tutto, no, né ricevitore né niente. Ma il digitale di nuovo ti ha preso, poi te ne soffi di nuovo. E quanti siete? Chi siete? Scommetto Gianfranco, sicuramente c'è in mezzo. Va bene. Eia, vabbè, però come fanno a capire a Franco? Le frequenze assegnate rimangono quelle le stesse, loro possono parlare in digitale, in VHF, in HF, ma poi usano anche l'analogico, la banda laterale, come dire, non è che le buttano le frequenze non usate, sono sempre utilizzate le frequenze, puoi parlare in digitale anche in 10 metri, ho visto video parlando in digitale in 10 metri, anche da altre parti, non è che le lasciamo ferme le frequenze vecchie, no? Sono sempre quelle frequenze, quelle segnate, fra. Ho capito, ma io non lo sapevo, ho chiesto solo per quello, non più che altro. Ok, allora grazie a Franco. Io vi saluto, sto guardando la partita, sono entrato così, giusto per dire un'altra frase. No Marco, io non ho comprato niente, la radio nuova fa tutto, capito? Vai già fra. Già lo sai che me l'hai programmata tu, quindi non Marco già lo sai che ho comprato la demo, quella fa tutto adesso, non puoi scappare più da nessuna parte, me l'ho già fatto. No, dove siamo noi non ci ascolti, tu sarai minimo in DMR, noi siamo un altro standard. Noi siamo tutti, siamo tutti, molti frequenti, molti che utilizzano i servizi, senza accettare le telefazioni dei ministri, anche a tutti. Ti ha risposto Gianfranco, sei fregato questa volta. Sei fregato Marco, ti ho detto, sei fregato. Allora io aggiungo che ci mettiamo una bella codifica e non ci ascolti proprio. Sì, vabbè, tu fai quello, codifica. Gianfranco, vieni qua che dobbiamo cercare a questo abusivo. No, una cifratura insomma degna, non è è mica in versione bassa. Oi oi, va bene. E d'altronde, comunque attraverso questo digitale, Claudio, è da due mesi che non ci parliamo più, cioè sono stati soldi buttati. Io per me il mio me lo difenderei, però poi ce lo deve vendere anche a Pomponio. Gli ho regalato per il compleanno, ne avevo due io, uno gli ho regalato, ma non abbiamo più usato. La 27 bisogna far rivivere, non l'PD, non PMR, non digitale, la 27 dobbiamo far rivivere. E Natalino ci voleva comprare il digitale, ma per andare dove? Per andare con chi? Non sai nemmeno qual è il digitale che abbiamo noi. Vabbè, Gianfranco forse l'ha capito. No, tu pensi che a me mi interessa quello che hai tu, io faccio quello che ho io. A me Gianfranco me l'ha codificato, abbiamo le frequenze nostre dove tu non ci puoi venire, quindi io non posso venire da te. Cosa mi interessa? Però la radio è quella, quello fa e me la tengo così. Non so giocherellare con i portatilini per parlare con te, con l'Antonello, cosa mi interessa? È un discorso diverso, Marco, sto scherzando. Va bene, dai, che c'è la pausa della Juventus. Caro Franco, caro Franco, non è pendo manco più 5 franchi, manco ci mi cudi da colpi di gricco. La numero bagno su digitale, è un buio. Va bene, hai getta, che la missione messa in vita per pagarmi i debiti. La liquidazione piano piano me la gioco tutta ma niente, hai getta. Se hai una dubbia di quella viola, recuperati le radio di Bubbelli. Sì, c'è mia figlia dell'altro giorno, papà la macchia, ha capito la macchia, non è di chi sa che andava lei. Da un giro, avanti Gianfranco. E ancora ci è andato in pensione. No, ci vado io, ecco, adesso ci vado anche me, giusto. No, non ci vado, perché ci devo andare in pensione. Sarà 50 anni, no, compio 100 anni, no. Gianfranco, sei stato così bene, guarda. La mattina ti alzi e vedi il sole. Capito? Vabbè, ci vedevo sempre Muggio, Romanzano, la mamma di Bisao, figlio di Franco. Dai che vado a prendere la partita, ragazzi, continuate pure, dai. No, Marco, sono d'accordissimo, ma noi non è che trasmettiamo lì nelle PD, ce l'abbiamo così come monitor, se dobbiamo dire qualche fesseria e fare qualche passaggio, ma a me piace trasmettere qua e rimango qua io, fidati, è un piacere stasera che c'è stato un po' di movimento, perché nei giorni scorsi non c'era molto movimento, Natalino stava male, io non c'ero, tu eri impegnato con quella strega di tua zia, Franco era sempre di turno, Gianfranco è andato lì a Cortina, anche lui, e quindi capito. Riprendi Marconi, dai, alta la bandiera del canale 10, alta la bandiera, ci sentiamo dopo. Sì, infatti alla fine questa, cioè, tutti bene o male l'antenna sul tetto, quasi. Cosa sai a zuffarti in OHF, che tremenda. Vabbè, se uno vuole sperimentare, fate le prove, dovrebbe smettere. Tutto lì. Vabbè, però vedo che molti sono fissi in PMR, fissi. Anche Luca ci ha abbandonato, Luca del Monte, sempre lì in PMR come se fosse... Ma... Una nuova frontiera, boh, va bene. No, vabbè, lui trasmette molto più in PMR perché è a casa della ragazza, molto di più sta, capito? Ed è lì vicino a loro, col baracchino. Io vabbè lo sento a Santiago 7, arriva molto basso, me l'ha spiegato. Invece col PMR si sente con tutti lì, capito? Per quello, però quando è a casa sua Luca è sempre entrato, per carità, ci mancherebbe altro. Dai, ciao ragazzi. Franco, riprenditela, che vado a vedermi la partita per un Cagliari, se fende un gabba a casa. E tu dove vai un gabba a casa? Con Cagliari, no, cosa vuol dire aiuto? Una volta un Cagliari no. Vabbè, ma se vieni un Cagliari così a Messi, che a me mi dispiace. A me mi fa bene lo stesso, non c'è problema. Non fare come fa mio cognato, no? Perché il vecchino, il Cagliari deve perdere oggi fatto io. No, deve vincere il Cagliari, lo devo dire no. Infatti speriamo che vinca, così siamo tutti tranquilli. Ciao ragazzi, ciao ciao. Ciao. Senti Marco. Ciao Claudio, dai. Ma sei alla partita o sei in radio? Stai facendo la spola? E comunque digitale e anche preso amatoriale c'è un bel mi sta, perché forse non lo so quanto lo usino qua, Fusion, DMR, non so quanti altri ce ne sono, però qua credo che prenda più DMR a Sassari, quello dico, quello nego, Gianfranco. Scusa, l'ho rispato, ma mi ha detto? Cosa c'è in Sassari, al fine Sassari provincia, cosa usano di più di digitale? DMR no qua, perché se no c'è di Star, ce ne sono un bel. Parliamo di Sassari, non utilizziamo praticamente un tutto, perché proprio non c'è più da nessuno. Ogni tanto si sente qualcuno, nel conteggio 27 è molto, ma molto più affollato. Lo so che non ne hanno voglia, ma di solito cosa posseggono almeno? DMR no, di Star forse va più forte in altre zone, si mettono d'accordo i radioamatori per usare altri sistemi, però c'è un sommare, insomma, è digitale, uso amatoriale. Forse il DMR tira per la maggiore, non lo so, quello dico, quello nego. No, il DMR è uno standard civile, quindi è chiaro che si sente, quello che si può sentire, perché c'è una rete internazionale che è permessa, e praticamente è collegato sul mondo, ecco, sono ricercatori all'imbara. Adesso ne vogliono mettere una terra a Haiti, credo. Quindi si può fare ascolto, c'è un apparecchietto anche a portarsi per ascoltare senza difficoltà tutti i vari TG, come si chiamano, e ascoltare. La stessa cosa si può fare anche sul computer, sicuramente, comunque. Ehi, vabbè Franco, meglio niente, guarda, te lo dico io che l'ho provato almeno, così con Pomponio per fare chiacchiere. Ma si sente bene. Come? Almeno si sente bene, sì. Sì, quando l'avevo provato con mamma aveva una bella voce squillante, certo leggermente digitalizzata, no? Ma Pomponio, che ha una voce bassa, ha questa voce da maniaco. Tutto, io ti ho detto voce, parla forte, no, mamma usciva a pensare la voce a toni più alti, non lo so, io invece non mi sono mai sentito modulare, non mi sono mai autoregistrato, diciamo, dai. Non ho capito. Sì. Ma guarda, in realtà pochi lo sanno, o se lo sanno non sono interessato, ma anche qua c'è il digitale, siamo al 23, 24, quando c'è anche poca preparazione in digitale, senti tanti messaggi, tanta roba, proveniente dalla Germania, da paesi del nord, c'è un sistema, si chiama ROS, praticamente digitale, che anche va sotto il QRM addirittura, come comunicazione, quindi tante cose interessanti, non parliamo delle stesse figure, ma hanno tante immagini strane. Come ha detto Ross, ecco, io avevo sentito questa frase da un'altra persona, un sistema digitale che, come dire, passa anche al di sopra del QRM, forse è quello che hai detto tu allora, Ross, ma me lo devo scrivere, dai. Che ti fa girare il mondo quel segnale, così. L'ho sentito parlare tempo fa, forse da te proprio, ma anni fa, non so, 2-3 anni fa, 4, boh. Sì, arriva gente da tutto il mondo. Non c'è bisogno di andare in UHF, in quelle bande lì. Basta attrezzarsi un po' qua e con così. Troppo complicato qua. Ehi. Eia. Comunque questo modo che mi hai detto tu, digitale di emissione, è solo di appannaggio dei radioamatori oppure anche di altre... Cioè solo amatoriale questa cosa qua, questo tipo di mondo digitale? Perché in realtà sono sui canali 23, 24, 25, no, 27, ho detto tutto, no, non sono amatoriali. Sono persone che si divertono, c'è anche il packet, anzi c'è anche una diffusione per packet. Però appena c'è preparazione la senti in FM che arriva a parare. Ma è roba che in Italia non si usa, diciamo. Hai detto che arrivano dalla Germania. Forse in Italia non si usa o non è autorizzato l'uso, non so niente di questo. No, in Italia non si mangia un hanno gana di fare sperimentazione. Non si divertono. Quelle cose che fanno poi anche nel 27 sono altro pianeta. Sono tutti con cellulare, la TV, la partita, boh, anche quando c'è tempo anche a mangiare in Italia. Eia. Eia. Vabbè, io a me piace la fonia personalmente. Però, insomma, sperimentare qualcosa si può sempre, perché si è autorizzato, dico. Va bene, oh caspita, le 9:16 sono. Ho guardato bene, sì, hanno un quarto. Bene, dopo questo immenso equivoco dei radioamatori che hanno preso dai 4:10 ai PL, PMR, va bene. No, comunque ripeto, non può essere nato dalla persona che ha detto una cosa, semplicemente le ha mandato la tabella, basta, io quelle le ho già viste, le avevo già scaricate, ma... è chiara la tabella, non dice assolutamente che i radioattori si sono pigliati persino nel PMR o sono a statuto primario, mai, no, non c'è scritto lì, proprio una panzana fenomenale. Va bene, non ne parliamo più, sennò macello. Io andrei quasi, dai, ci sentiamo alla prossima, ciao Franco, Natalino e Gianfranco, dai. Natalino c'è ancora piuttosto. Eia. Sì, tu mi avevi detto, mi compro anch'io il digitale. Non serve a niente, se cominciamo a frammentare la gente tra PMR e l'EPD 27, questa banda muore davvero. Io adesso ricomincerò a entrare. Diciamo abbiamo avuto molto da fare, però adesso dopo tanto tempo di cose comincio a rientrare, sennò qua va proprio male la 27. E se poi la trovano vuota la risegnano a qualche altro servizio, se la sentono completamente deserta, quindi è meglio tenerla stretta. E infatti, vabbè, là, anch'io me ne sto andando, non ce la faccio manco a parlare, Marco, là. Ciao a tutti, correti per me. Ehi Anastasi, vabbè, dai, riguardati, stai al caldo, c'è una voce allucinante, guarda, una voce allucinante, va bene, dai, ci sentiamo, ciao Gianfranco e Gianfranco, dai, vai Gianfranco, chiudo qua, per te esecutivo, dai. Sì, ciao a tutti, allora, buona serata, anche a te, bello, infatti, perché c'è un bel cinema su Rete, ciao a tutti, buona serata ancora. Ciao ciao a tutti, ciao ciao. Ehi, ciao Marco, ciao Natalino, ciao Gianfranco. Ma Gianfranco, ti volevo dire una cosa, ma sono di Sassari? Sì, sono di Sassari. Perché poco fa ho visto che avevo il segnale basso, adesso mi arrivi abbastanza bello forte e tuffante. No, era perché ho sbagliato antenna, come notate, mi sono dimenticato, ho cambiato la configurazione con l'antenna e quindi mi è tutto ordinando, per quello che sono 3 giorni facendo sto da qui. Ok, buona serata ancora, scappo via, sono poi... Ciao ciao. E niente, ciao Gianfranco. Non proseguo con tutto, dai, ci sentiamo. E comunque usatela la 27, perché sennò poi ho fatto tanta fatica, ho cambiato il cavo, ho comprato una penna nuova. Marco. non ti preoccupare. No, già rientriamo. Già rientriamo. Il 27. Ci mancherebbe. Vabbè, l'RPP è un altro discorso. L'ha voluto istituire Claudio comunque. Cioè, l'ha scelta come monito, questa volta io sono innocente. Anche se sono un utilizzatore non dovrei utilizzarla con quelle potenze. Questa volta non è di mio pugno, Io ho fondato un canale con potenze eccetera. Ma non hai capito che adesso Claudio è in pensione, quindi si può perdonare di tutto. Pensionati, qualunque cosa facciano, non hanno mai colpa. Sono rimasto dentro la moglie, guarda. Vabbè, detto scherzando, a quello che disturbava la banda aerea inglese, per poco non gli fanno la pelle, anche il famoso articolo che avevamo letto. Vabbè, ma è sempre un pensionato, è colpa sua. Vabbè, ciao, devo chiudere, c'è un schiaccio, ciao. Ciao, quell'IT esecutivo, ciao. Ciao.